Scuola in controluce. Avremmo dovuto studiare il barocco, ma noi siamo pienamente consapevoli di non capire assolutamente un... Cazzo, professore. Fuori. Sa cosa mi ha detto Ciacca? Era serio, Professore, ma Piero della Francesca era un uomo o una donna? Genio. Il rosso e il blu, il film sulla scuola in sala da questo fine settimana, come avete sentito poco fa nel GR Spettacoli, è andata anche piuttosto bene al botteghino. Davvero un sodalizio importante quello fra cinema e scuola, che ha prodotto in questi anni davvero tanti film interessanti. E il rosso e il blu, tratto dall'omonimo libro di Marco Lodoli, ne è l'ultimo esempio. Racconta le vite che si intrecciano in una qualsiasi scuola romana, vite di insegnanti, alcuni ormai disillusi e stanchi come il prof Fiorito, impersonato da un bravissimo Roberto Erlizka, altri entusiasti e motivati come il professor prezioso che è Riccardo Scamarcio. Abbiamo visto il film insieme ad alcuni insegnanti milanesi e insieme al regista Giuseppe Piccioni. Quando ho deciso di fare un film sulla scuola non ho pensato che di fare un film insomma, sugli argomenti che riguardano l'attualità, no? Mi interessava quel mondo perché è una specie di crocevia di illusioni, delusioni, aspettative, bilanci e invece prospettive, no? E questo anche incontro tra gli adulti e gli adolescenti, l'idea che c'è qualcuno che trasmette il sapere e qualcuno che cerca di riceverlo. E dopodiché ho cominciato a scrivere e la cosa che mi interessava era appunto non inseguire l'attualità a tutti i costi, però cercare quello che nella scuola ancora resiste, quello che nella scuola è ancora da difendere, no? Ecco, una scuola da difendere. Perché è così da difendere questa scuola? È molto disprezzata ultimamente, no? Si parla di professori che non hanno voglia, di professori disillusi, di ragazzi rimbambiti, che poi la scuola è lo specchio della società, perché ci sono dentro i nostri ragazzi, ci siamo dentro noi adulti. Come mai, secondo te? Non vorrei che nella scuola si tentasse un po' di denigrarla, di sminuirla, un po' per delle ragioni che sono, no, sotto gli occhi di tutti, però anche per giustificare quello che sta accadendo, no? Questo disprezzo nei confronti della scuola pubblica, questo sbeffeggiare quelli che in qualche modo, e credo che siano tanti, credono, no, in quello che fanno tutti qualcosa di più di quello che dovrebbero fare, in condizioni a qualche volta anche mortificanti. Per cui mi sembrava che il film, pur seguendo le leggi dello spettacolo, tra virgolette, mi sembra che il film un pochino tenti di guardare con un briciolo di speranza, no? Sia agli uni che agli altri, sia ai professori, sia ai ragazzi. Eccolo qua allora il professor prezioso, il povero, illuso professor prezioso che ha il volto e gli occhi di Riccardo Scamarcio. C'è una specie di incontro, scontro con questa specie di istituzione all'interno di un'istituzione, la scuola, che è il professor Fiorito, professore che sta andando in pensione, disilluso, cinico, che come prima, come dire, la prima cosa che dice a questo giovane supplente, dice: guardi, lei se crede di poter insegnare qualcosa a questi ragazzi si sbaglia, le può soltanto fare dei danni irreparabili. Qui, mamma mia, che amarezza, qui, terribile. Diciamo, sì, per cui diciamo sono due personaggi a confronto, se vogliamo, uno pieno di illusioni, un idealista, e l'altro un disilluso cinico. Beh, forse la scuola avrebbe bisogno anche di una sana via di mezzo, no? Non occorre essere davvero degli illusi, no? Per pretendere comunque di magari semplicemente capirli questi ragazzi e provare a passargli qualcosina. Sì, beh, diciamo che io sono abbastanza, io credo che nella disillusione, diciamo, ci siano dei paradossi, quindi in questo senso il film è arguto, cioè è chiaro che nella disillusione c'è una specie di amarezza nei confronti di quello che è stata la scuola, quindi rispetto alla disciplina, a quella disciplina ferrea che era la scuola, diciamo, degli anni italiana, degli anni 40, 50 se vogliamo, quindi la scuola intesa come luogo in cui si impara la disciplina che si rispettano le regole, no? Ma secondo te, Riccardo, ha ancora senso che una scuola sia solo questo? Io credo, diciamo, ahimè di sì. Mi spiego, credo che questa è una cosa che ho capito a mie spese, essendo stato un pessimo studente, che quindi boicottavo proprio l'istituzione in toto, e da un certo punto di vista capisco anche che si possa ancora boicottarla in linea teorica, però credo che per veramente infrangere le regole bisogna conoscerle, e bisogna conoscerle bene. Cioè, se vogliamo, come dire, insomma, ci deve essere qualcuno ancora che le spieghi, poi più da grandi si deciderà se ci piacciono o no queste regole, ma almeno conoscerle. Esatto, quelle regole di base bisogna conoscere, la storia va conosciuta, la letteratura bisogna conoscerla, insomma, se no di che cosa parliamo? Qui qualsiasi cosa vogliamo fare, ecco, anche se ci vogliamo inventare una nuova macchina che produce acqua calda, dobbiamo assolutamente conoscere i pezzi fondamentali, quindi bisogna essere dei bravi idraulici se si vuole inventare qualcosa. Assolutamente, assolutamente. Ma tu che ricordo hai della tua di scuola? Hai già detto che sei stato un pessimo alunno, così hai detto tu o qualcosa di simile. Sì. Cos'è che non ti piaceva? No, ma io ho un problema proprio, un problema a stare nei banchi, diciamo, essendo stato un ragazzino precoce che aveva amici tutti più grandi, quindi aveva fretta di crescere, trovavo fuori dalla scuola tutte le cose che mi interessavano di più, quindi ahimè, perché poi invece dopo ho dovuto fare un pochino una specie di opera di contenimento, autocontenimento. Sono un po' pentito ovviamente di aver perso, però non veramente, perché tutto mi è servito comunque, però non ero proprio non riuscivo a stare nel banco, ecco. Non hai trovato un professor prezioso che ti ha fatto innamorare della materia? No, piuttosto, diciamo che... di no, poi li ho incontrati dopo i miei maestri, però sì, però ecco, questo è importante, essere un po' idealisti è fondamentale, sennò già il mondo va a rotoli, se in più pensiamo di poterlo cambiare senza credere nelle utopie mi sembra impossibile, no? Salve, sono Prezioso, sono il supplente di italiano per la sezione F, sono in ritardo, mi scusi. Grazie. Ah, benvenuto in questa scuola. Grimaldi. Grimaldi Antonella. 333-1615-108. Spegni questo coso. È spento, professore. Ma che spento? Stai cantando, spento. Lo so a memoria. Ma lei ce l'ha con me, dica la verità. Ce l'ho con i supplenti. Sono pieni di buone intenzioni, causano danni irreparabili e se ne vanno. Allora, dai prof della finzione ai prof veri in carne ed ossa che hanno assistito alla prima del film a Milano. Allora, sentiamo le loro impressioni. Gli studenti sono particolarmente, all'inizio particolarmente apatici, e in questo non mi sono ritrovata molto, quindi ho trovato un certo disfattismo iniziale. Poi però ho visto anche il fatto che con la tenacia c'è stata una grande possibilità di recupero, e questo mi sembra il messaggio più importante, cioè soltanto con il lavoro da parte dell'adulto si può recuperare. Ecco, si vede in questo film una scuola un po' lo sfascio, sì, no? Non si trovano le sedie, si combatte davvero per una sedia. La mia realtà dove insegno io non è proprio così, però penso che in molti paesi d'Italia, in molte città d'Italia, ma anche forse a Milano stesso, ci sia la possibilità di ritrovarsi in questo tipo di realtà. Insomma, lei si riconosce di più in Fiorito o in Preziosi? No, non mi ritrovo assolutamente in Fiorito. Io sono convinta che gli insegnanti rimangano nella memoria degli studenti. Io ricordo i miei insegnanti e ho la presunzione di credere che forse anch'io rimarrò un po' nella memoria dei miei studenti. Grazie. Ma secondo lei, insomma, il ruolo dell'insegnante oggi è diverso da quello che doveva essere un tempo? È più difficile? Si parla tanto di ormai insegnanti demotivati perché vengono pagati poco, perché non hanno più un ruolo sociale che nessuno gli riconosce. È vero, oggi fare l'insegnante non è come tempo fa, neanche come quando ho fatto lo studente io, assolutamente diverso. È vero che siamo anche sottopagati, se prendiamo le statistiche europee è confermato, tutto questo è confermato, così come è vero che i ragazzi di oggi certamente sono in una situazione difficile. Però bisogna dire una cosa, che i ragazzi che si vedono in questo film, come in tantissimi altri film dedicati alla scuola, spesso sono i ragazzi più disastrati esistenzialmente di quanto nella realtà non li abbiamo in classe. Eccoci qua, allora se volete potete riascoltare questa puntata andando su Scuola in Controluce sul nostro sito, potete anche riascoltare dal sito l'intervista che avevamo realizzato a Marco Lodoli sul suo libro dal quale è stato tratto il film quando uscì nel 2009. Domani alle 13:30 Italia in Controluce.